Ma se invece fosse il governo a dirle no, ci fermiamo, lei sarebbe più tranquillo? È una responsabilità che lascio al governo. L'accoglierebbe con sollievo? Io personalmente sì. Potete immaginare il dramma che sto vivendo in queste ultime settimane nel dover reggere isolato questa mia battaglia. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Spero che tutta questa cosa terribile che c'è stata finisca in fretta e che si possa tornare a vivere normalmente. Non credo assolutamente, anzi, che non si possa fare questo. Magari ci vorrà un po' più di attenzione, però che si possa tornare a vivere come abbiamo sempre vissuto. Come consigliere non sto curio a tutti quelli di iniziare. Il problema è che qualcuno non è d'accordo, il problema è che non si rema tutto dalla stessa barca, il problema è che non c'è sempre qualcosa che non va tra la sicurezza. Noi associatori puntiamo la ripresa con massima sicurezza. Una scelta di questo tipo comporterebbe delle responsabilità in capo a chi le assume, che sono di una gravità inaudita. Io non posso essere il becchino del calcio italiano, quindi io ho la responsabilità di difendere il movimento del calcio, permettetemi, anche del movimento sportivo, perché ha ragione la Pellegrini, hanno ragione gli altri sportivi. Non capisco questa resistenza nel non avviare con tutte le garanzie possibili anche una valorizzazione proprio di tutto il movimento sportivo. Opinioni sparse e diffuse, abbiamo sentito Mancini, abbiamo sentito Acerbi, abbiamo sentito Gravina ieri da Fazio. Sentiremo anche voi, 800 24 00 24, WhatsApp vocali 349 238 6666. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, ti faccio i complimenti in questa puntata vintage, te lo dico subito, di tutti i convocati, cioè addirittura De Luca oggi in redazione, l'ho sentito. Schiattone e Roberta Frisani in regia. No, ti volevo fare i complimenti perché la tua idea del calcio, del drive-in ha preso piede, Non so se hai letto Midtjylland, il club danese che ha detto mettiamo i maxi schermi nel parcheggio dello stadio per il calcio drive-in. Ovviamente Pardo guadagna parecchi soldi con le royalties, ma vabbè. Certo, no, proprio brevettato il drive-in, I miei progenitori avevano inventato. No, ma insomma, sai. Regali un biglietto a me e uno a Crosetti? Sì, oh Gross, come stai? Ciao Mau. Bene, io avrei anche un'idea, potremmo proprio anche brevettare un logo. Vieni avanti, drive-in. Ma tu stai zitto che so che passi le domeniche guardando il campionato A7 thailandese, il calcio nicaraguense, in combutta con la tua bimba. Sì, assolutamente, abbiamo una rete di suggerimenti e di rimbalzi internazionali, molto bello, però come dice Luca Bottura, bravi ma basta, esatto. Adesso magari continuiamo, ricominciamo a mangiare un po' meglio. Perfino Trump si è stufato di vedere le partite di baseball di 12 anni fa, può stufarsi anche Crosetti. Sì, però lui non ha capito che erano 12 anni fa, lui pensa che siano quelle attuali. Vabbè ragazzi, Maurizio, è stato molto grande serenità e si sente leggere la tua intervista di venerdì a Trapattoni, bello di leggere la saggezza del Trap, una specie di raggio di sole, ma almeno io l'ho vissuta così. Sì, ma intanto il piacere di sentirlo sempre così tonico al telefono, no, non che mi immaginassi altro, però si teme in questo momento che tutti si possano spegnere un po' anche a livello così emotivo, psicologico, insomma il Trap è un signore che ha superato l'ottantina, che sta in Lombardia, chiuso in casa, e pensavo di trovarlo un po' appassito. Quando gli ho detto, mister, la sento benissimo, lui nella, sul giornale dice tocco ferro, a me naturalmente ha detto che toccava qualcos'altro, insomma, era proprio il trape, ci ha messo anche un orco zio prima, quindi posso garantirvi che mancava solo il fischio e il trape ancora tutto intero, e tutto lui. Bellissima anche la risposta alla demagogia imperante alla tua domanda come vive l'assenza di sport un uomo di campo come lei. Tra le altre cose dice: sono sicuro che lo sport sarà alla base della ripresa, ci darà forza e passione, il calcio è lo strumento più semplice e potente per unire i giovani di tutto il mondo, va oltre ogni confine, oltre ogni ideologia, anche più in là della politica, aggiungo io, Trump compreso, Pierluigi. Sì, sì, no, ma assolutamente, assolutamente, va oltre tutto, e è chiaro che a tutti ci rode in questo momento, per mille motivi più seri. Io ho avuto modo di sentire proprio per una puntata di Mangia come parli, Maurizio, ormai credo 35 giorni fa, in una telefonata in cui, mamma mia, tanti, troppi, ecco, eri appena stato, credo, a fare un servizio fuori dalle Molinette o qualcosa del genere, ma era appena cominciato, diciamo, la fase calda, quella terribile, e quindi insomma la sua testimonianza è una delle cose che mi porto dietro, proprio come uno dei segni che la situazione stava in qualche modo precipitando, perché tu l'avevi vista e raccontata in qualche modo toccata con mano, e quindi poi in tutto questo dramma c'è anche qualche piccolo effetto collaterale, e tra questi effetti collaterali c'è questa mancanza di sport, non solo di calcio, che non ha precedenti, perché appunto non, anche l'estate, anche quando il campionato è fermo, i calciatori sono in vacanza, c'è il mercato, in questo momento non c'è nulla, c'è la memoria, c'è tutta questa serie di meravigliose di campioni che si parlano tra di loro, ed è divertentissimo questo Players Tribune applicato al mondo dei social network, però insomma, ecco, sì, ieri ho visto anche Inter Real Madrid 65 secondo tempo in leggera differita, mi è capitato anche questo, cioè, ritardo del satellite, il famoso ritardo secondo del satellite. Il satellite sul gol di Milani, no, ma è bellissimo, però è chiaro che è un momento insomma di privazione di altro che e poi è tante cose, sono i concerti, è la possibilità di poter uscire. Ma la vita stessa, la vita stessa. La tua sensazione al momento, allo stato dell'arte, Maurizio, qual è? Beh, intanto è che non ci sta mancando qualcosa che ci piaceva fare, ma ci manca proprio un pezzo di noi. Cioè chi vive davvero la passione del calcio, sembrerà una cosa banale, ma non è che la viva perché non sa che cosa fare per riempire il tempo, no? Come quelli dicono leggo per hobby, no, chi ama la lettura legge per essere, per esistere, come quando si mangia, non è che mangi, sì, mangi perché è buono, ma mangi perché hai bisogno di vivere, e noi abbiamo bisogno di vivere di calcio, quindi questa è la premessa, per far capire quanto manchi, quanto proprio io e noi tutti la sentiamo quasi come un'amputazione, no? Che tu senti la famosa sindrome dell'arto, sì, mancante. Hai ragione. Ti prude la gamba che ti hanno tagliato, ma tu sai che te l'hanno tagliata. Ma questa premessa è un po', come dire, un po' forte, la faccio proprio per far capire che lo scetticismo mio, il timore che ho espresso sul giornale, sui social, su una ripresa che rischia di essere davvero un po' pericolosa e un po' anche irreale, un po' fuori dal mondo, necessaria, importante per quanto il calcio ci manca, ma difficile da gestire per quanto riguarda poi la realtà che ci circonda, e lo dico da Torino, e ormai è una, dopo Bergamo e Milano se la gioca, insomma, no, sulla città con più contagi e più vittime, che continuano purtroppo a esserci. E allora lo dico in un luogo di grande sofferenza e di grande difficoltà, in una regione che ha due squadre in Serie A, la Lombardia ne ha quattro, e quindi quando scrivo che la vedo difficile la ripresa del campionato, lo dico a malincuore, cioè mi piange il cuore nel dirlo, ma temo che sarà davvero molto difficile. Oggi su Repubblica Emanuele Gamba e Franco Vanni spiegano, sì, sì, che il problema è proprio la reperibilità dei tamponi, non tanto li paga, è ovvio che saranno tutte spese private da parte dei club, ma non ci sono proprio questi tamponi, e non è un problema secondario. Speriamo che lo superino, ma la vedo difficile. No, è chiaro anche che il discorso deve allargarsi, perché riguarda non solo l'Italia e non solo quelli che fanno demagogia dicendo, anche ministri compresi, ma tanto quella è una cosa poco importante in questo momento, il che è vero in assoluto, però a me sembra sempre un po' demagogia spiccia. Riguarda il sistema europeo, perché questo discorso credo riguardi anche anzi sono certo riguarda l'UEFA e non l'Italia o la Federcalcio. Andrea Forlì, buongiorno. Buongiorno, grazie della conclusione. Faccio una premessa: a me il calcio senza spettatore non dispiace, si sentono le voci dal campo, dei giocatori, degli allenatori, tecnicamente, da allenatore. Per quanto riguarda il calcio che riparte, io sarei favorevole che ripartisse, ma non sarà facile. Però darebbe un bel calcio nel sedere a tutti coloro che lo hanno demonizzato e denigrato fino adesso come un calcio solo di fighetti, si può dire. Si può dire. E darebbe una bella lezione a tante persone, politici compresi, se ripartisse, cosa la vedo complicata, ma se ripartisse... E hanno già, cioè qui non si sa come ripartiranno i ristoranti, gli alberghi, i negozi, ma il calcio sa come ripartire. Se sì, è la strada sì. giusta non lo so. Però loro hanno dato una risposta a 15 giorni, dal 3 maggio. Io sono, la penso esattamente come lei e aggiungo una considerazione. Calcio a porte chiuse, calcio molto televisivo. Ecco Pier, non so se toccherà a te quel giorno fare la telecronaca della prima partita che vedremo, avrà l'impatto emotivo e anche televisivo dello sbarco sulla Luna, eh? Sì, ma infatti è una soluzione giusta, certa non c'è, nel senso che sono valide le argomentazioni di chi pensa che sia rischioso, di chi pensa che sia pure un po' posticcia questa cosa di tenere in piedi una stagione, però al tempo stesso potrebbe esserci invece l'effetto contrario della proprio della bellezza, bisogna fare uno sforzo di fantasia e proiettarci da qui a qualche settimana e ovviamente gli scenari sono confusi, sono imprevedibili, quindi veramente una risposta non c'è, ma questo senso di sbarco sulla Luna, di recupero della libertà, delle piccole cose, ci potrebbe essere ed è quello che mi auguro che ci sia e che ci sarà, insomma, perché vorrebbe dire che ci sono le condizioni minime per poter certo. ricominciare e per cambiare umore, no? Per cambiare faccia. Sì. Però come ripetiamo ormai alla noia da più di un mese, insomma, qua è tutto nelle mani essenzialmente della scienza e del virus, perché insomma, poi ci sono pure quei casi tipo la SARS, no, del virus che improvvisamente sparisce. Speriamo che sia questa la situazione, altrimenti se non sparisce da un certo punto di vista, è forse più pericoloso ottobre di luglio addirittura potrebbe essere, no? Cioè, quindi voglio dire, siamo veramente in una situazione talmente complessa e di difficile previsione che le incognite sono tante. Però sì, lo sbarco sulla Luna è vero e mi piacerebbe anche raccontarlo. Sì, Maurizio, avremo quella sensazione di altro che il campionato del Nicaragua. Beh, se succede io mi candido come Ruggero Orlando. Se Pier fa Tito Stagno, io vorrei fare Ruggero Orlando, facciamo un collegamento insieme. Tu dici... Che ha toccato, io dico non ancora e andiamo avanti così. Fosse anche Spal Brescia, per dire, quello che è la partita che vuoi, sarà l'evento. No, ma abbiamo una tale astinenza che il calcio un calcio d'angolo di Spal Brescia io me la vivo già come un orgasmo, scusate. Io non vedo l'ora di vedere, di assistere a quel calcio d'angolo. Anche al drive-in. Anche ovunque, ma a occhi chiusi me lo raccontano e io faccio finta di averlo visto. Senti, ridateci però adesso a parte di te, ridatecelo quando sarà ora. Sì, ridatecelo quando sarà ora, con tutte le premesse che giustamente ha anticipato Pierluigi e con, per quello che compete a chi deve decidere, anche un po' di coraggio nelle decisioni, sempre in sicurezza. Ci fermiamo un istante e poi voglio parlare con voi, approfittando della presenza di Maurizio Grosetti, di altre spigolature che abbiamo visto e letto in questi giorni. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. In questo periodo, Maurizio, tra l'altro abbiamo scoperto, leggendo i giornali dei giorni scorsi, che Sarri è diventato juventino inside, mentre Higuain ancora non è tornato, la Juventus non so se non abbia ancora convocato con precisione tutti i giocatori, quindi non so quali siano le pieghe e le proporzioni di questa roba. È tornato, come sappiamo, Pjanic, Cristiano Ronaldo ha i suoi problemi in Portogallo, però questo è quanto abbiamo scoperto in questi giorni. Sì, è così, in realtà non ci sono ancora convocazioni, quindi formalmente nessuno può essere considerato renitente alla leva finché non arriva la cartolina, no? E quindi però Higuain è difficile che lo si riveda, mentre Ronaldo dovrebbe essere qui tra non molto. Tra l'altro è arrivata anche la notizia di un caso di positività lì a Madeira, una ventina di chilometri da dove vive Ronaldo. A Madeira i numeri sono molto bassi, per fortuna a loro, però sì, lui tornerà. Pjanic è tornato e niente, quindi la Juventus è una delle società più attrezzate anche dal punto di vista, anzi la più attrezzata in assoluto, dal punto di vista logistico, certo, di proprietà, dove peraltro già vanno i giocatori sempre in ritiro, e quindi la Juve potrebbe ricominciare a giocare anche ieri, se per quello. E per quanto riguarda Sarri, beh, insomma, meglio tardi che mai, cioè si è accorto che la Juve è un luogo di catalizzatore di grande amore e di grande odio, e che fuori pensano che la Juve vinca perché ha gli arbitri, il potere a favore, e quando sei dentro ti accorgi che non è così. Peccato che quando lui era fuori, peccato che quando lui era fuori della Juve diceva più o meno le stesse cose. Comunque vabbè, lo diciamo sorridendo, insomma. Sì, però è stata bella, ingenua questa catarsi, no? Pier, non hai notato anche tu? Adesso sono qui, mi rendo conto di com'era, cioè di com'è vivere qua dentro la sindrome dell'accerchiamento. La sincerità fa parte, secondo me, del personaggio Sarri. Io, sai, che non sono sempre convinto che lui le azzecchi tutte dal punto di vista della comunicazione, anzi trovo che sia un po' il suo lato debole, ne ha di ottimi, di straordinari, secondo me, soprattutto sul campo da allenatore. Dal punto di vista della comunicazione potrebbe migliorare, questo lo dico sommessamente, però un aspetto, e se vuoi parte della sua strategia di comunicazione, è proprio la, secondo me, una certa sincerità. Cioè lui alcune cose le dice anche perché è veramente molto sincero, perché è molto diretto, molto schietto, lo è sempre stato, lo è anche adesso che ha la Juve, non è cambiato niente da questo punto di vista. E quindi io penso che quella sia assolutamente una sensazione che lui ha provato sulla sua pelle, e fa parte, insomma, delle, uno ti fa sempre per se stesso, ragazzi, nella vita, un calciatore, un allenatore. Quindi poi una volta che stai dentro a un progetto con i tuoi giocatori, con i tuoi tifosi, con i tuoi dirigenti, con i tuoi obiettivi, è inevitabile che diventi il più grande ultra della squadra per la quale lavori. Quindi secondo me è tutto assolutamente nella logica delle cose. Però non mi sorprende la sincerità, nel senso che lui ce l'ha proprio come tratto, come caratteristica di comunicazione, sempre. Sì, Maurizio, tornando ad allargare il discorso, come ti è sembrata la reazione del mondo sportivo in generale a questo momento? Hai trovato, quali distorsioni hai trovato, al di là delle prevedibilissime liti da cortile in funzione di come è scritta la classifica? Ma io sono sincero, mi è capitato nella mia vicenda professionale, è capitata la grande fortuna di seguire molte Olimpiadi, da Atlanta 96 tutte, e ogni volta immancabilmente quando si comincia a giocare a pallone al torneo di calcio all'interno delle Olimpiadi, gli altri sport, però sti calciatori, il calcio non è così, non ha tanto senso alle Olimpiadi, è un'altra cosa, critiche, ma loro non stanno al villaggio, e chi si credono di essere, e in parte è anche vero. Però io ho sempre notato in questo, non c'entra niente il virus, ma è la premessa per quello che dirò, anche una certa, non so come dire, un certo senso di superiorità che nasce da un complesso di inferiorità nei confronti del calcio, che è anche, secondo me, troppo comodo vederlo sempre come quel pianeta alieno che è effettivamente pieno di privilegi, certo, ma ci sarà un motivo se il calcio è diventato quello che è, se ci fa impazzire di passioni più della pallamano, senza offese, adesso so già che ci offenderanno quelli della pallamano, o più della pelota basca, che sono nobilissime discipline. Cioè voglio dire che anche certe reazioni che emotivamente capisco, comprendo, dalla Pellegrini ai tennisti, Montano, insomma, questi li capisco tutti, però mi è sembrato di leggere lì sempre un po' di quella malcelata invidia nei confronti di chi comunque è qualcos'altro da te, non è colpa di nessuno, sì, voglio che è dire. È un sentimento diffuso e comune. Cioè, è diffuso e comune, ma secondo me in parte è giusto quando il calcio litiga come fosse sempre alla riunione di condominio sui millesimi o nel pollaio, e quindi lì da qualche volta è il peggio di sé, non riuscire mai a mettersi d'accordo sull'interesse comune, ma nel considerare solo gli interessi di parte, e in questo non dà una bella immagine. però avercela con lui sempre solo perché rappresenta quello che è, perché è così popolare, perché è così appassionante, perché anche è così grande come numeri, ma i numeri grandi del calcio non è che il mondo degli affari, degli ascolti televisivi, degli sponsor gli ha regalati al calcio perché il calcio è simpatico. E il calcio tutto questo lo muove per quello che rappresenta, per tutti noi, no? E quindi io credo che occorra un po' di anche di lucidità in questa analisi. Ripeto, il calcio non è un modello assoluto, ma non è neanche il babau, non è neanche quella cosa da sbertucciare solo perché non è la maratona del 1896 all'Olimpia. Sì, non è neanche come ci dicono proprio l'ultima attività da tenere in considerazione per motivi economici e motivi di passione, di vita normale, come ci vogliono, come continuano a dirci, ah, ma sì, ma quello vediamo dopo, prima cominciamo a riprendere ogni altro tipo di attività, come se il calcio non muovesse appunto dei soldi, e questa non è una parolaccia. Anche questo atteggiamento è molto diffuso. No, infatti il calcio è assolutamente una delle priorità della ripresa economica del nostro paese e direi quasi dell'Europa. Non deve essere una priorità sanitaria se anche un solo tampone usato per il calcio, come dicevamo prima, lasciamo stare chi lo paga, ma se c'è un tampone solo, se anche lo paga Rockefeller e quel tampone non lo fanno un medico, un infermiere o un malato, ma lo fanno un centrocampista, allora lì non mi sta più bene. Ma nel rispetto, diciamo, delle precedenze sanitarie, e quindi anche morali, etiche, eccetera, il calcio è assolutamente una delle cose importanti. Non è un hobby, non è una perdita di tempo di gente che non sa che cosa fare. È un'industria, è uno spettacolo, è una grande passione popolare ed è un mastodonte finanziario che non può schiacciare tutto il resto, ma che non si può neanche mettere in un angolo a parcheggiare in garage dicendo bravissimo, vabbè, chi se ne frega, facciamo a meno. Bravissimo, tant'è vero perché Trump, che insomma la cui politica è spesso discutibile e discussa e chiacchierata, ha inserito nella mega commissione per far ripartire il motore degli Stati Uniti anche l'NBA e le leghe sportive. Certo, è lo stesso meccanismo, ma è lo stesso meccanismo, no, ma la visione di Maurizio la condivido al 100%, è quella che abbiamo raccontato in questi giorni qui, è una visione laica, nessuno deve demonizzare, nessuno deve mitizzare, conosciamo i difetti, conosciamo i problemi, conosciamo alcune delle miserie, alcune delle quali sono proprio legate a questa litigiosità clamorosa che, devo dirti la verità, poi onestamente in Italia viviamo da vicino, ma poi vado a vedere anche in Spagna, si litiga, anche in Inghilterra, insomma non è che c'è l'unanimità di pensiero in una situazione così emergenziale, nemmeno negli altri paesi. E però insomma l'aspetto economico del calcio non deve essere una cosa. Ieri ho visto, ho seguito il presidente da Fazio, e insomma non bisogna, ha ragione, non bisogna assolutamente vergognarsi della parola business. Cioè questo è un settore che pesa 5 miliardi e mezzo all'anno soltanto di fatturato diretto, più tutto l'indotto, tutti gli sponsor, tutta la gente che viaggia, che prende i treni, che prende le macchine, che si sposta, che si muove, cioè è una cosa assolutamente che fa parte del tessuto di questo paese dal punto di vista economico, dal punto di vista ideale, identitario, ed è non solo il nostro paese ma è mondiale, è anche uno dei fenomeni che negli ultimi anni è cresciuto di più a livello mondiale, è anche uno dei business che in questi anni complicati, dal 2011 in poi, tutto sommato ha tenuto meglio, proprio perché ha una grande forza, che è una forza ideale, emotiva. Poi le brutture ci sono, come tutti i settori in cui c'è grande interesse economico, qualche cosa bruttarella c'è, c'è magari una maggiore propensione a vedere qualche eccesso, però insomma non scherziamo, ecco, non scherziamo morale, perché quanto non ci c'è manca, proprio niente di male. Quanto ci manca il VAR, morale. ma invece a quelli, per esempio anche Giorgio De Luca, che prima diceva ma la ripresa sarebbe comunque qualcosa di artificiale, di posticcio, di forzato, quasi di brutto esteticamente. Può essere, perché sarà comunque un'anomalia, sarà o sarebbe un'anomalia, sarà o sarebbe un compromesso, però se c'è la possibilità, ripeto, sanitaria, organizzativa e materiale di percorrere quella strada, dobbiamo prepararci ad una strada che non può essere come quella di prima, ma che sarà anomala, che sarà di compromesso, ma sarà transitoria, sarà temporanea. Ecco, l'importante è non fare magari dei pasticci che facciano durare i pasticci di quest'anno, sì, dentro i pasticci eventuali dell'anno prossimo. Cioè, a quel punto è meglio una cesura più netta, ma poi quando si riprenderà o si riprendesse, allora poi lì senza zavorre. Poi, per carità, va bene tutto, che tutto va bene, ecco, non per chiudere, quindi... Maurizio, parlavi di strade, mi è venuto in mente il ciclismo che tanto vicino al cuore ti sta, va bene, partite di calcio senza pubblico qualche esperienza ce l'abbiamo per motivi diversi, anche di ciclismo senza gente a bordo strada invece io, al di là della roba della Parigi-Nizza di qualche mese fa, io non ho memoria e non vorrei nemmeno averne. No, quello non è possibile, non si può fare. Il ciclismo ha bisogno, è l'unico sport che va dentro, esatto, il paesaggio, dentro le città e dentro la gente, e quindi senza la gente vai dentro cosa? Dopodiché per me non è nemmeno cominciata la primavera, perché non hanno corso la Milano-Sanremo. Sì. Cioè, per me siamo ancora in pieno inverno, perché per me la primavera comincia quando in televisione, o qualche volta mi è anche successo, volta di culo professionale, di vederla questa cosa, questa scena dal vivo 3-4 volte, seguendo la Sanremo. Tu arrivi improvvisamente, oltre, dietro una curva, improvvisamente il mare, come canta l'amico di Pierno, e vedi le mimose. Allora, in quel momento tu che scendi dal Turchino e pieghi, diciamo, da Savona, vai verso Albisola, vai verso Alassio, alle Iguegli, poi Sanremo, allora lì vedi che ci sono le mimose e dici, sai che c'è? È primavera. Quest'anno io quella scena non l'ho vista dal vivo e nemmeno in televisione, quindi per me attualmente, anche perché oggi c'è un clima, è il 3 di novembre. Quando, però perlomeno avremmo appena corso Lombardia, se fosse il 3 di novembre. Potresti trovarci le castagne a Sanremo, amico mio. Esatto, quindi per favore ridatemi la primavera e anche lì le dici quando sarà ora. Ciao, però Maurizio. Sì, mancano tantissimo anche loro, sì. Grazie Maurizio. Ciao, wow. Ciao. Grazie a voi, ciao. A presto. Borsa, torniamo. Scusate, ma se la Germania, la Danimarca, la Francia e altri paesi europei iniziano prima di noi, è un guaio. Noi dobbiamo iniziare anche noi a giocare, punto. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Brescia ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'ASST Spedali Civili di Brescia, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per affrontare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Per tutte le info, s24ore.it/aiutiamo. Convocati. El Barça va a intentar tirar la casa por la ventana para traer a Neymar y a Lautaro. Vamos a ver, todos los grandes futbolistas, ¿cómo no me van a gustar? Y Neymar, sin duda, es uno de ellos. Pero ahora, tal y como están las cosas, hay que plantearse bien si esto va a poder ser posible o no va a poder ser posible, porque todas las especulaciones que podamos hacer van a depender de la situación en la que queden la mayor parte de los clubes, ¿no? Sobre todo en el aspecto económico. E questo era Setién, allenatore del Barcellona, che strizza l'occhio sia a Lautaro che a Neymar, che a tutti i grandi giocatori del mondo, ma soprattutto a Rosell, che è lì in agguato. Saluto Filippo Maria Ricci, ciao Filippo. Buon pomeriggio. E anche Hola, per un punto abbiamo approfondito il nostro amico Luca Marchetti. Ciao Luca. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Sei in buona compagnia. Addirittura ottima, adesso non è stagionale. Intanto non è ottima. Intanto, perché c'è Filippo naturalmente, fossimo solo io. Parlavo di lui. Io parlavo di te. Di Carlo. No, intanto a beneficio di, non, a beneficio non solo di Trosetti ma di tutti voi, di tutto il mondo, vi ricordo che in Turkmenistan il campionato è aperto con la gente sugli spalti, per chi ancora non lo sapesse. In Messico invece sono state sospese per 5 anni promozioni e retrocessioni. In Italia, caro Marchetti, c'è la tua Ternana che sta guardando con attenzione a quello che succede in Serie B e in Serie C, perché la Serie C propone la promozione a sorteggio e questo è un unicum, non si ha notizie in altri campionati. Sì, spero che non ne sentiamo più in realtà del sorteggio, voglio dire. Come diceva Condò l'altro giorno, le città capoluogo che cominciano con la T, perché è un chiaro riferimento alla sua Triestina. Io condivido Ternana e Triestina, benissimo, Taranto. Sì, no, lui parlava di capoluogo di regione, ma si può fare un'eccezione. Anche provincia, dai. Provincia. No, però la Serie C, la terza promozione a sorteggio, sono 60 squadre, sono tantine in Serie C, divise in tre gironi. Tra le seconde del girone. Ma in realtà il sorteggio lo volevano fare fra quelle che avevano diritto di partecipare ai play-off, quindi dalla seconda alla decima. Sì, comunque sì. Con un minimo requisito. Sì. Secondo me il sorteggio adesso... si passava dalla retrocessione alla promozione, così, con ma una più o meno botta di culo. In Spagna cosa c'è? Filippo, in Spagna cosa c'è? La corrida? Per definire... No, anche no, le piazze sono chiuse, anche qua è un dramma pure per la corrida. Non c'è niente, non so. La monetina, no, ancora qua non l'hanno proposta. Ma Serie B e Serie C cosa dicono lì? Perché noi parliamo della Liga, no, ma Serie A e Serie B sono collegate. Sì. Serie A e Serie B sono collegate, sì. Quindi si pensa a un... Diciamo, se si ritorna a giocare, come insomma stanno spingendo forte per tornare a giocare, e la Liga e la seconda sono collegate, quindi tornerebbero insieme. La seconda B e la terza, che pure sono collegate, cioè terzo e quarto livello, ancora non si sa, e ovviamente è molto più complesso perché, come in Italia, sono tantissime squadre, e quindi tante partite, un pochino più complesso. Per ora è tutto fermo. Però invece no? Noi dicevamo qua che litigavano come dei pazzi e li hanno fatti sedere allo stesso tavolo, li hanno fatto fare la pace, sì. Ai nostri leader del calcio. Letto, incredibile. È stato bellissimo. Questa voce sulla classifica, no, che verrebbe omologata così com'è, quanto pesa? No, cioè, No, perché allora, questa viene dalla settimana scorsa, appunto, siccome come sappiamo bene la Liga e la Federazione litigano continuamente, e la settimana scorsa a un certo punto una dimostrazione di forza, Rubiales ha detto vabbè, se non si finisce, finisce così. E Tebas sarà immediatamente querelato. Sì, insomma, più o meno, insomma, anche lì sono volati degli stracci pesanti. E poi però, siccome adesso c'è come responsabile dello sport, c'è una donna intelligente, questa Irene Lozano, che è una scrittrice, giornalista, politica, fa un po' di tutto, l'hanno messa lì allo sport e questa dice, di fronte a una situazione vergognosa dove litigano continuamente, lei ha organizzato questo incontro sabato, un incontro che è durato 8 ore, che già come riunione erano in tre, quindi insomma... Deve essere 2 ore e 40 per 1 di possesso palla, diciamo. No, ma poi soprattutto 8 ore con due che, vabbè, non erano nella stessa stanza, due che non si odiano. No, perché anche tu, Luca, sai come noi siamo dei dilettanti confronto a Tebas e Rubiales, al capitolo liti, no? Sì. Li ha tenuti lì 8 ore, no? E sabato. Poi l'altra cosa che mi ha colpito molto, è che non lo sapeva nessuno. Questa notizia è uscita domenica, tipo verso le 5, le 6 del pomeriggio, quindi quasi 24 ore dopo. E qua sapete che insomma, tra giornalisti, radio, cose, qualcuno, sì. uno che abbia la notizia, non lo sapeva nessuno. Ha fatto un comunicato lo stesso CSD. E da lì in poi adesso pare che si parlino e dovrebbero continuare a parlarsi, e quindi c'è questo progetto di far fare i tamponi la prossima settimana, diciamo dal 27 aprile in poi, e poi di provare a farli tornare ad allenare le squadre appunto di Liga e di seconda e per dal 4 maggio in piccoli gruppi e poi con la speranza che ai primi di giugno si possa tornare in campo, ovviamente a porte chiuse. Certo. E poi vedremo. Certo, Luca, mi spieghi invece il pensiero di Ceferin, letto oggi ad esempio sul Corriere della Sera, che insomma, vuole un mercatone extra large, magari a sorteggio pure quello. No, credo che sia un po' più seria come tipo di intenzione. Il mercato è un grande riequilibratore di conti. Sì. Cioè, il mercato serve anche, non solo per migliorare la squadra, ma anche per mettere a posto i conti o per far sopravvivere una squadra. Il fatto che ci possano essere delle conclusioni diverse in questo momento fra le varie leghe europee e fra le varie leghe mondiali, approfittare di questo per poter concedere, perché non è un obbligo, è una concessione alle varie federazioni, di poter allungare fino a un mese il mercato, quindi non un mercato aperto da adesso fino a gennaio, sono 12 le settimane di mercato, la FIFA dice potete aumentarle fino a 16, fino a un massimo di 16, potrebbe consentire a un'armonizzazione fra i vari campionati, perché magari l'italiano finisce dopo quello tedesco, visto che loro vorrebbero iniziare tra 15 giorni, e allo stesso tempo permetterebbe alle società di armonizzare, levando la famosa regola tre trasferimenti, due maglie, e di riallinearsi con le varie necessità che sono state determinate non da volontà personali ma da quelle del Covid. Sì. Quindi, a me sembra di buon senso, l'ostacolo dov'è? Non c'è. Ah, ecco. Non c'è, l'ostacolo non c'è, bisogna soltanto capire quanto conviene tenerlo aperto e a chi conviene tenerlo aperto, perché poi alla fine stiamo parlando di questioni economiche. Una cosa molto importante su cui mi facevano riflettere alcune società è che molte società o molte aziende hanno il bilancio in scadenza il 30 giugno e alcune delle operazioni fatte entro il 30 giugno mettevano a posto i bilanci, anche per il fair play finanziario, pensa alla Roma o all'Inter, no? Quante operazioni hanno dovuto chiudere prima, perché il 30 giugno era la fine anche della stagione. Allora, la federazione italiana in questo caso consentiva la possibilità di fare delle operazioni a fine stagione, cioè a fine stagione sportiva, cioè dall'ultima gara giocata fino al 30 giugno, e queste operazioni erano ascritte al bilancio precedente. Bisognerebbe concedere anche questo, per esempio. Sì, ma a me sembrava, non so se anche a te, Pier, d'aver capito che questo ostacolo del 30 giugno non esistesse più di fatto. Invece hanno detto... Io ti sto parlando di un problema finanziario. Sì, sì, no, no, ma... Sono due piani diversi, quello legale, diciamo, contrattualistico dei giocatori e quello finanziario. Secondo me, guarda, il discorso è complessivo e il mercato e le discussioni sul mercato vanno in una direzione di buon senso. Il problema è che, come tutte le discussioni di buon senso, in questo momento abbiamo il problema che il virus non sappiamo come sarà, quindi torniamo sempre al solito discorso. Ma io sono dell'idea, ieri Gravina, a proposito di persone che sul piano della comunicazione sono sicuramente molto sincere, non fanno 0-0, lui lo è, secondo me ha usato l'espressione non voglio fare il becchino del calcio italiano, che se vuoi è un po' forte. Io credo che sia dovere di tutti i dirigenti delle società, della federazione, della Lega, cercare di ipotizzare il futuro. Cioè, secondo me non è una cosa volgare quella che fanno, è la cosa che devono fare. Sarebbe volgare se stessero a casa a rassegnarsi di fronte a un destino davvero terribile. E quindi poi è ovvio che appunto tutti gli scenari sono scenari che passano da quello che ci concederà sto maledetto virus. Che poi il mercato possa essere uno strumento di riequilibrio, questo non c'è dubbio, è pure vero che poi però la perdita di fatturato ce l'avranno tutte le società, quindi alcune conseguenze sul piano dell'economia reale, diciamo così, ma ci non saranno. C'è dubbio, ma su questo dal non punto c'è di dubbio. Vista del maquillage finanziario, sicuramente è ovvio che si cercheranno, si utilizzeranno tutti gli strumenti possibili e legali per sistemare le cose, però poi alla fine il tema è che meno 10, meno 20, meno 30%, non lo so, però sicuramente le società fattureranno di meno quest'anno e ci sarà un effetto alone sui prossimi è chiaro, e i conti ma si possono fare solo alla fine. Come succederà in tutti gli altri ambienti dell'economia. Ma certo. Senza petrolio. E i conti non li puoi fare adesso, però puoi organizzare già da adesso un sistema diverso che è quello che Ceferin sta ipotizzando, mi sembra questo. Devi avere degli scenari, devi essere appunto pronto a diverse soluzioni. Filippo? Il problema, secondo me, può essere sulla cioè del 30 giugno, è che c'è una data che era del mercato e una data di una chiusura di un bilancio che non la decide il mercato. Cioè, quello purtroppo è lì che dovranno in qualche modo, cioè, o fare una proroga dicendo sì, ecco, spostare i termini alla fine della stagione vera e propria, però i bilanci si chiudono il 30 giugno e questo in qualche modo dovranno trovare una soluzione, insomma, che non è, non penso sia semplicissimo. Esiste un problema bilancistico su cui dovranno far fronte poi le società, magari con iniezioni di capitale, perché questo può succedere, Quindi bisognerà poi capire le ripercussioni nel fair play finanziario, perché Schäfer nell'intervista di oggi ha anche detto che non cambierà molto, visto che comunque è uno strumento che ha dato i suoi frutti. Non sono completamente d'accordo, ma comunque alcuni frutti li ha dati. E l'altra questione è relativa alle indicazioni che ha dato la FIFA, perché si può spostare, come diceva Filippo, il 30 giugno per la questione sportiva. Poi, se però faccio un nome a caso, Mertens non è d'accordo perché ha già firmato con un'altra squadra, può decidere di continuare a non giocare nel Napoli, non giocherà nella nuova, ma non continuerà a giocare nel Napoli. È un esempio assolutamente se c'è, di scuola. Se c'è un'offerta che è rifiutabile, vuol dire che cosa fa? Può firmare per la nuova e giocare con il Napoli fino, che ne so, al 13 luglio, ma può anche decidere di smettere il 30 giugno. Ragazzi, vi chiedo un istante di pazienza per il traffico e torniamo subito anche con scenari che riguardano il Barcellona, in parte la Juventus, poi c'è Roberto da Novara che è un ascoltatore in linea, insomma tutto questo dopo il traffico. Siete tutti convocati anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Promo 24. IG, broker leader nel trading online, ha il piacere di invitarti all'appuntamento dell'anno in live streaming con uno dei più grandi trader al mondo, Larry Williams. Partecipa online il 9 maggio dalle 10 alle 15. Collegati alla diretta video per scoprire le regole d'oro del trading e come gestire al meglio i rischi e le opportunità sui mercati finanziari. Registrati su IG.com. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fare trading comporta dei rischi. Dunque, io nell'ordine ho un ascoltatore perugino che Sbertuccio Marchetti, che è di Terni, ho un ascoltatore che mi scrive: ma in un paese dove si fa la lotteria degli scontrini, veramente vi stupite della lotteria per la promozione in B? E c'è Piano, uno che scrive: Piano, con la promozione a sorteggio che fate venire un infarto a tutta Vicenza. No, Vicenza sarebbe promossa, Vicenza, Regina e Monza sarebbero promosse. Il quarto decretato, ma mi sembra sia abbastanza una provocazione questa di Ghirelli, almeno così intendo. Roberto da Novara, buongiorno. Buongiorno, ma no, veramente sono già oltre Novara adesso. Comunque niente, io volevo chiedervi, nonostante io non sono un grande esperto di calcio, però sono un assiduo ascoltatore di Radio 24. Io praticamente faccio l'autotrasportatore, non mi sono mai fermato, ho sempre lavorato, sia io che i miei colleghi, diciamo. Non siamo capaci neanche a pagamento a trovare chi ci fa un tampone per la sicurezza, per qualcosa. Adesso vorrei sapere, se ripartisse la Serie A, ci saranno, non so, centinaia, migliaia di tamponi da fare a sti calciatori alla fine di ogni partita, alla fine, che mi dicessero dove vanno a prenderli. Il numero è 1400, che stimati per riprendere. Dove vanno a prenderli non lo so, ma credo sia un problema anche per loro, però non credo che nessuno dei qui presenti abbia un'idea, abbia una risposta da darle. No, qui in Spagna, se vuole l'ascoltatore, non so quanto gli interessa, però qui in Spagna la Liga si sarebbe accordata con una clinica privata e per cui pagano e gli fanno i tamponi. Questo è quello che si dice qui. Ma allora, dal punto di vista del principio, sappiamo che anche in Italia ci sono delle cliniche che fanno i tamponi, e poi ci sono tutta una serie di diversi metodi, no? Cioè, insomma, non entro nel merito, la card, il seriologico, eccetera. Siamo ovviamente in una disciplina, in una fattispecie talmente nuova che pure i virologi stanno cercando di capirci qualcosa. L'ascoltatore ha ragione, ma questo è un tema che più che tutti i convocati riguarda Milan, Cruciani o Barisoni, nel senso che è assurdo che ancora oggi non si riesca, ci sia gente, ma anche gente malata, gente che sta a casa, che telefona e non riesce a farsi un tampone, o ancora peggio gli ospedali, o ancora peggio gente che è convinta di aver avuto il coronavirus perché ha avuto dei sintomi da coronavirus, che è rimasta in casa, fortunatamente è andato tutto bene, adesso questa gente se dovessimo riaprire la rimandiamo in giro, ma non sappiamo se è contagiosa, se non è contagiosa, una specie di malati fantasma, insomma. Sì, sì, questo, no, questo è credo sia questo è incredibile. Uno poi, dei nodi cardini dell'intero problema. Che le società avrebbero le strutture, gli strumenti economici piuttosto per andare all'estero a far fare i tamponi ai giocatori, cioè, non so come dirti, questo non c'è dubbio e fa parte del mercato. Il problema è che non ci sono i tamponi per... Aggiungo una cosa, sì, che molte industrie italiane, quindi non calcistiche, si stanno attrezzando per poter garantire la sicurezza ai loro dipendenti con i test sierologici quando saranno, certo, pronti, con i tamponi. Questa comunque è un'altra questione da prendere in considerazione, perché le aziende del calcio in questo caso bisogna considerarle, visto che sono anche la terza azienda del paese, le aziende che prima o poi devono riprendere, come riprenderà Acciaieria, come riprenderà non sarebbe uno scandalo, e per me non è uno scandalo che Rugani, faccio per dire un nome, o Gabbiadini abbiano avuto il tampone. Lo scandalo è che c'è gente che sta male e non riesce a farselo, cioè, questo è l'aspetto secondo me che non è logico, è assurdo, ma sento Burioni. Sì, sì, qua il discorso è chiaro, vogliono far ripartire, cioè, perché è un settore trainante dell'economia, è importante. È giusto che riparta, ma è assurdo che non ci siano i tamponi per le persone che stanno male. Cioè. Ragazzi, vorrei per chiudere la conversazione, portarvi da un'altra parte meno complicata anche per noi, e che riguarda sempre l'intreccio con la Spagna, e una lettura che Luca Marchetti dà alle prospettive anche qui di mercato del Barcellona con il governo ombra del vecchio Rosella. Luca? Ah, pensavo che tu dovessi far ascoltare qualche cosa e ti devo commentare. No. Voglio sapere, ragazzi. Luca, voglio sapere. Questo è un segnale inquietante. Voglio sapere. Se... pure Marchetti, è finita, ragazzi. Silenzio, assenso, dai. Era un attimo così teatrale, dai. No, banalmente il Barcellona di Rosell, che è il vecchio che torna, se abbiamo sentito prima Setién dirà sì, Lautaro, bravo, mi interessa, sì, mi interessa, poi non mi sembra che abbiano tutti sti quattrini al momento, a parte Rosell. Io credo che Filippo lo sappia meglio di noi. Io, da quello che sapevo io, il Barcellona sta perdendo 5 milioni di euro al giorno, sì, di mancati incassi, ne risparmierà 30 se si allunga di stipendi, se si allunga lo stato d'emergenza al 9 maggio come dovrebbe essere, però ne risparmia questi 30, ma appunto poi ne perde continuamente, ogni giorno che viene sulla terra ne perde, non so se addirittura 5 milioni, però. Economica già non brillantissima, perché esatto, comunque una situazione già pessima. E allora, com'è che Roselli ieri ha detto che non si ripresenta, però che sia il presidente ombra, su questo non ci sono molti dubbi. E Neymar mi sembra inarrivabile. Lautaro può essere un obiettivo se danno qualcosa in cambio. Mi sembra che la politica dell'Inter sia perfetta in questa situazione. Lo volete, va bene. Questo è il prezzo, e cosa ci date in cambio? Luca? Non solo lineare. Soldi, ma anche giocatori, perché esatto, poi dopo con l'Inter farebbe una grandissima plusvalenza con Lautaro Martinez, magari aumentano anche il prezzo di compravendita, perché la clausola di Lautaro è da 111 milioni di euro esercitabile nei primi 15 giorni di luglio. E peraltro pagati in una settimana questi 111 milioni, quindi in questo momento è inarrivabile come clausola, per le modalità di pagamento, per tutto quello che stiamo dicendo del Barcellona. Con degli scambi ci possono essere dei vantaggi economici per entrambi, il Barcellona perché non tira fuori il cash, o almeno tutto il cash, e l'Inter perché vedrebbe valutato il proprio giocatore più dei 111 milioni della clausola, e perché comunque tutte e due le società, mettendo dei giocatori in mezzo, potrebbero fare è comunque una plusvalenza che significa ricchezza di fatto in questo momento. È la cosa più ambita. Chi può interessare all'Inter? Si parlava di Griezmann. Ma io penso che Griezmann è il bello stipendio. 18 Arthur si è chiamato, appunto, parlato personalmente, Arthur si è chiamato fuori e ha detto grazie, però non grazie, e rimane Alegna, per esempio, che mi sembra un giocatore interessante, e Semedo un altro giocatore interessante, esatto. Però vendi uno che è praticamente esploso quest'anno per dei giocatori interessanti, questo è il grande soldi. Discorso se vuoi Lautaro, secondo me siamo, per come la vedo io, è parente degli incedibili, per come lo vedo giocatore. Anche secondo me, per gli anni che ha, per lo stipendio che ha e per il futuro che ha, Io sì, non però, lo cederei mai. Però mai, potrebbe essere, come dice Luca, un grandissimo affare dal punto di vista economico per l'Inter. C'è da considerare questo. Può essere un sacrificio necessario, no? Certo, bravissimo. L'Inter in questi anni non ha mai venduto, mai. Anche a fronte di dover depauperare, fra virgolette, la propria primavera, no? Perché ha venduto tanti giovani di bellissime prospettive, tra cui Zaniolo, quindi andando incontro anche a delle figure non perfettamente buone, pur di tenere i suoi. E arrivati a questo momento, visto la situazione di Icardi è piuttosto nebulosa, potrebbe essere, fra virgolette, costretta ad accettare la corte del Barcellona, anche per un discorso economico. Senti, invece hai citato Icardi, io non riesco a credere fino in fondo alla voce che prende quota di una Juventus a lui interessata. Io sono convinto di una cosa: se un giocatore ti piace a giugno, ti piace a gennaio e ti piace anche al giugno successivo, soprattutto se è forte, si devono verificare le condizioni. In questo momento secondo me non ci sono le condizioni di nessun tipo, perché sarà un mercato da decifrare. Io sono convinto che la Juventus stia facendo le proprie mosse, le ha fatte in anticipo anche sul discorso stipendi, quindi starà già pensando a come programmare anche la prossima stagione, però poi non tutte le ciambelle riescono come te le immagini. Guarda la scorsa estate, Dybala e Higuain erano i due che potevano essere sacrificati nel mercato e alla fine non si è incastrato nulla di quello che avrebbe pensato o voluto la Juventus in fase di ideazione della campagna acquisti. Io credo che un club come la Juventus debba tenere obbligatoriamente sotto controllo dei giocatori importanti. Icardi è un 93, è forte, ha dimostrato di poter segnare anche in Europa, ha ribadito la sua forza anche in Champions, quindi è un giocatore su cui puntare. Lui magari vuole ritornare anche in Italia, bisogna vedere se ci sono le condizioni, magari rimane a Parigi. Sì, a Parigi c'è aria abbastanza grama. Più però va via Cavani. Adesso abbiamo sì, Cavani gli può dare gli spiragli che onestamente quest'anno, come era un po' prevedibile, insomma, al di là di tutto non ha avuto, perché onestamente, insomma, andare lì con quella situazione di concorrenza non era una grande idea, secondo me. E ha segnato molto all'inizio, poi è stato un po' in difficoltà, poi ci sono sempre queste voci che però non so se sono vere, su presunti dissapori, ma lì forse ormai una volta che c'hai questa etichetta, pure i giornalisti magari qualsiasi cosa esagerano. Io queste robe veramente non le so. No, e secondo me se hai l'idea, diciamo, dell'attaccante che partecipa poco al resto della costruzione della manovra, ma che dal punto di vista della finalizzazione è fortissimo, Icardi rimane una scelta interessante, secondo me. Però insomma, non so neanche dirti se Paris Saint Germain poi. Io con Ronaldo non lo vedo tanto, che è un giocatore simile. Cioè, appunto. Però Ronaldo ha sempre cercato il suo Benzema nella vita. Sì. No, ma Icardi è uno che devi. L'abbiamo detto mille volte, adesso al di là di tutto. È uno, devi giocare per lui. Se ci sono degli allenatori che per costruzione accettano anche questo tipo di ragionamento, per avere un attaccante, sicuramente sulla finalizzazione c'è poco da dire su Icardi, no? Però nel calcio moderno ci sono pure quelli che invece ma vogliono. Anche Higuain non sembrava appartenere alla specie dei benzemani. Partecipa molto di più, cioè sono proprio due cose diverse, secondo me. Higuain, lascia perdere che segna, che negli anni d'oro ha segnato più dei re dei finalizzatori, ma Higuain è sempre uno che comunque ha partecipato con la squadra, che anche tecnicamente ha delle qualità, insomma. Però ecco, vediamo. Io, secondo me, il punto di partenza è capire il Paris Saint-Germain che cosa vorrà fare. Quali sono le intenzioni? Forse cioè, Luca ha qualche idea. Dipende anche come finisce la stagione, è chiaro. Se finisce. Vabbè, rimaniamo. Ovviamente, chiudiamo con questo se. Ciao, ragazzi. No, chiudiamo con Marchetti. Con Marchetti che ci fa la chiamata quella quando c'è qualcuno. Poi, in questi giorni qui, di grandi comunicazioni. Vai. È bravissimo, è il numero uno in questa roba. Ciao ragazzi, Luca Marchetti, Giorgio Giffardo. Ciao. Grazie a Giorgio, Luca, Claudia Schiattone, a Roberta Frisani. Ciao a tutti, a domani. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.